tanchi con già la resistenza attaccata, già pronto, cioè la Repubblica è una radio. Io ho l'allerta ma non c'ho la resistenza, non che non c'è la resistenza da attaccare. Ah, resistenza è... sì, dovrei averlo, piccolino, non so quanta luce possa fare, l'ho tolto appunto da un apparecchio perché ho messo tre led con la striscia attaccata direttamente, fanno un sacco di luce. No, questo è lo smitter tipo 140, tipo 440, lo smitter così piccolino, adesso ho siccome già la luce, però voglio mettere bianca uguale a quella che ho io, a quelle 430, 440, quindi sono tutte bianche, e la voglio togliere, perché no, non mi piacciono, non sono amici. Sì, vabbè, queste vanno bene, mica. Le abbiamo già messe, già montate questi led fasi in un casino di luce, piccolissimi, però ne devi mettere tre e sono attaccate alla striscia già con la sua resistenza adesiva tra l'altro e vanno benissimo. Io me l'avevo messo nel rosmetro, nella radio, vanno benissimo. Adesso ti mando la foto. No, non è un faccio un bel luce, se no io voglio quella degli altri, sono una luce calda, bianca, però non è intensa, intensa, capito? Secondo me anche uno fa bene. No, ma ce l'ho io, vedete, ma non ho la resistenza. Non lo volevo mettere, capito? Cercando un led che abbia già l'attacco pronto. 470 tanto, e allora faccio così domani mattina, dai. No, quello anche un paio di led già bianchi, con la resistenza da 470, gliela soldo e poi gliela soldo direttamente al progetto, oppure la cerpea, domani mattina posso appoggiarmi al piano, ciao, anche buonasera. Guarda, te l'ho mandata la foto, ce l'ho già io, pronta. Allora, come la vai, cazzo? Aspetta, ma dove sono indietro? Non ce l'ho già fatto a buttare, adesso non la prendo. Cazzo, bubù. Tu, adesso sono stato a gabbidare a chi ricanta la nina nanna. E la prima dove il vento di sicuro di affaccia, e lo so. Mamma mia, andiamo a magnazzare a cuddu. Stavo rispondendo a un messaggio. Io ti sento qui, chi è che non ti sente? Ah, vabbè, Luca hai un segnale di uno. Però la radio ha detto che andava bene. Va bene. Sì, capita, dove la trovi? Una basetta è quella. Perché? Che tipo di filetto è? Ho capito. Sì. Adesso non mi ricordo il nome. Perché non si trovano facilmente qui i passi lì. Non si usano. Così che trovarli un casino. Già ho capito, sì. Quelli larghi sono. Sì, è vero. Li trovi nei lavandini. Sì, è un attacco quello, è un attacco di lavandino. È un attacco di lavandino quello proprio, sì. Quel bullone lì. Non si può fare altro. Che cos'è tu? Non c'è forse il passo di quella boomerang, perché quello lì è radiale, è quello che c'è tu lì, che proprio io, è radiale della boomerang centrale, quella che facciamo della Grand Prix centrale, o della Bubba, se non mi ricordo, mi sembra che sia quel passo lì. Non lo so, adesso vi mando la foto, io ne ho uno di quelli. Guarda la foto del passo che ti manda lui, perché ho fatto un radiale centrale io, e se non mi ricordo se era di una bomba anche di quella grande, oppure se era di Grand Prix centrale, lo stilo centrale della Grand Prix, quello che avvicca, ha lo stesso passo della boomerang, provo a mandarglielo, si controlla un po', perché mi sembra sia quello il passo, è il centrale di una Grand Prix, quello lì, e sono uguali i passi della Grand Prix della boomerang. Vabbè, Antu, ti ho mandato il video anche del radiale di Marato Claudio. E quella comunque, perché il passo è uguale, non capito. No, quello del radiale mi pare un passo normale, adesso ti ho mandato il video comunque, perché ti ho mandato anche la foto di un'antenna, di una base, di una Grand Plane, probabilmente li fa più comodo questo attacco. Lo puoi modificare anche con la base della Grand Plane, sì, anche con quello lì si può modificare. Sì, quello è. se te lo vale il dato, per questo è infatti un casino. Ma lui, mica è largo quello che ti ho dato io, quel passo lì è. No, no, più largo ancora qua. È un passo, capito, la filettatura tra un filetto e l'altro è largo rispetto a un classico bullone. Adesso non mi ricordo come, hanno un nome, non mi ricordo però come si chiama. Quanta ganaduia? Mi, a gargame la gargarella. Quanta ganaduia passo, eh? Allora si può travagliare, mi obbligo a tenere balle come te te. Infatti si travagliare, fa un altro pezzo. Cocco, mané! Anto, te l'ho già spiegato, se tu lo metti a manetta, bisogna passarlo quel baracchino. Scusate, vabbè, a me non me lo faccio, mi facevo uscire compresso. Mi cado già è presente, qua ti ricordi il mobile come cavolo, lo mettevo dopo la potenza, uscivo compresso. Ehi, devi tenere basso, non bisogna alzare il picco. Ehi, guarda che lo sto utilizzando sull'altro apparecchio, com'è? Alternata leggermente, io sento. Alternata? No, mettila a potente. Ma c'è che rumore, fa sentire la gattina del bar. Ah, cavolo. Adesso guarda, sento tutto, cioè. Ho provato a scambiare i microfoni, cazzo, ma con l'album non mi soddisfa il mobile combo. Non lo devi tenere molto alto, se no ti fa rientro, capito? Cazzo, e pure no, che non si muove nemmeno la stazionaria, non ne ho stazionaria. Non capisco il perché, boh, è così. Non so, questo poco secondo lo prendo subito, e gli altri tamato, perché non abbiamo delle prende, te le prendi lui. E beh, a tu. Sì, quello però, quel passo lì è una base di un'antenna, di sotto c'ha l'SO239, tutto un blocco, capito? È tutto un pezzo. È una vetina di traverso, non la puoi mettere. Ma no, non disaccordo niente, tu, capito? Una vetina li puoi mettere anche piccolina. Vabbè, l'importante è che non indebolisci tutto poi facendolo passante. Tanto io vado con il condensatore acceso, eh. Allora, mi sentite? Sì. Un attimo, c'era Luca che stava dicendo una cosa. Antonio, vai. Vabbè, Luca, Antu, ha detto Luca che ha cambiato il condensatore e ha acceso. Antu, ho cambiato il condensatore 10 volt, 1200 microfarad è acceso. E dire Giambato sul condensatore. Fate entrare chi era per il controllo, dai. Io sono, mi sentite? Ma io ti ascolto tutto saturo. Come tutto saturo, ragazzo? Sì, da me sì. A tu? Sì, dimmi. Antonio, ma c'ha qualcosa attaccato a tu? No, non c'ho nulla attaccato lui. Guarda se è saturo ancora. Tutto distorto, non. Sì. Se hai qualcosa attaccato si satura per quello probabilmente. Prima stavi andando bene. Ho attaccato nei giochi io con l'aggio combinato. Che sta a fare, faccio? Quindi frequenza, c'è Sant'Evanova, neanche. La radio è tutta nasina, tutta boccamani. Come se fosse attaccato, no? No, attaccato non sono attaccato. Tu hai scoccato il clarifer, controlla. E il mobico non ha clarifer. Tu, ma che cosa tu clarifer? Sono altri frequenza. Esatto. E ho attaccato il vermentino. Che banda è questa? Sì, riuscendo bene poco fa. Ah, poco fa era l'altro apparecchio, ma non capisco cosa stia succedendo. Ma hai toccato la potenza? No, non ne ho toccato io potenza, no, è NL. Controlla, sto riuscendo male, lo sento, poco fa sto riuscendo bene. E poco fa era l'altra radio, qua. Sì, Non venne a dormire, no, sennò che te la rido. Mi sembra che sta usando la boomerang adesso a tu. Beh, sciocca. A tu, ma la boomerang sta usando? Sì. Sta usando la boomerang. No, non lo so, controlla. Sì, sembra fuori frequenza. Ma prima cosa stava usando? Questo attaccato stava andando bene. Boh, vabbè. Un attimo, vabbè, facciamo una telefonata. Eccomi qua. Questo cos'è? Il Mobicom? No, ho dovuto attaccare l'altro perché non mi sentivano. C'è un sacco di problemi con l'apparecchio, no, non va. Beh, scherza, non so cosa vuoi io. Vabbè, dai, te l'ho detto, tu provalo, se non lo vuoi, se non andava bene, me lo riportavo indietro. E andrà a due, e ti dimostro qua, lo attacco davanti a noi e ti dimostro che funziona bene. Sa chi ci funziona? Beh, scusami. Quello lì, se tu lo metti di watt, fa quel problema lì, a te ti va, perché non è un'antenna buona, ti fa quel problema lì, a me mi va in, come si dice, in, non in saturazione, in complessa la modulazione, è troppo, come quasi in saturazione, ecco, perché ha troppo uscita, cioè è troppo tirato con l'apparecchio, invece se lo metti a 5 watt o 4 watt va bene. L'ho utilizzato a 5 watt e la radio non va bene, dicono che sembra fuori frequenza. Ma io ti ascolto bene, ti ho fatto anche la registrazione, vabbè, riportamolo indietro, non usa vestori, unisci, portamolo indietro, fuori da te, dai. Che ti dica, Lupo, io le stazionarie non ne ho, sono a zero, cioè ho risolto tutti i problemi, cioè ti faccio vedere il coso mi ha acceso, no, te lo giuro qua. Cioè, ho usato tanti apparecchi, cioè, anche quello là non mi dava nessun tipo di problema, l'altro. Oddio. Tanto mi dispiace. Grazie. Se non dirti una balla. Vabbè. Cioè, per non dirti una balla, Tu, ma ti ho mandato la registrazione, ti ascoltavo bene, poi se no ti ascoltavo male non è un problema mio, vabbè non c'è problema, riportamolo indietro, già non è che ho bisogno di, per tenerlo lì buttato e cosa ne va zio, riportamolo indietro, non c'è un problema, torno ai soldi, non c'è un problema, io ti ascoltavo bene, poi non so se dipende da loro, Cosa vuoi che ti dica, Lu? Mi viene l'uguri, mi viene, cioè, perché cazzo anche bellino come apparecchio. Ripeto, io ti ho mandato la registrazione e ti sentivo bene, poi se no ti sentono male non è colpa mia, cosa vuoi ti dica? Dai, riportamo indietro perché non ci sono problemi, dai. Ma te lo posso andare tu? Se non ti piace, sono a casa della mamma. Parola, Luia. Cazzo, mi piegni l'uguri, guarda, mi dispiace, Lu, cavolo, boh. Ma come cazzo vanno a dire che sei fuori frequenza? Ma se ti sento bene, boh. Se lo riprovo, provo a attaccarlo. C'è un'altra registrazione, adesso lo mando anche a Claudio, Antonio, manda anche a Antonio la registrazione, ti sentivo bene, non è che sei questa super grande modulazione, però ti sentivo bene, adesso lo mando anche a Claudio, aspetta, a Luca. Sì, chi è? Ah, capa, ma chi sei che non ti ho capito bene, chi sei? Sì. Stadio riserva, sì. Ah, come ti mamma arrivi così basso, cioè, già ti sento, però cavolo non mi arrivi fortissimo. Dimmi tu a me. Sei diciamo 6, 8, 9, dai. E c'ho questo cavolo di fischio maledetto, c'ho, porca miseria. A me Luca Flip, a me Luca Flip mi arriva un bel forte. Ma non penso che ti dico che sei di più forte di me. Comunque io mi sento male anche adesso, mi sento male con l'altro e mi sento male anche con questo, sicuramente perché il segnale è basso. E cosa mi posso fare? Vabbè, c'è una testa. Io l'ho fatta la miglioria, però cioè altro non posso fare. Per adesso basta così. Luca, dimmi. Io Ah, vabbè, allora dai, che glieli metto nella busta e li devo cerotare questo LED. Ok, a dopo. Adesso gli ho incerotto sul microfono, col biadesivo pure. Mi chiudo questo televisore e ho finito. Ancora un più televisore, già mi sono arrivato a 4. Ehi, altro, c'ho un mal di testa, capito? Non la giugata. Ma il passato mio non è frittellando. Scrimpellando. Frittellando. Frittellando, Vedi che le fasce e bordiole sono legati in fuori. Di dottor Gibù. Io non so con Luca Flip e io mi. Ho Falcone. No, perché Luca Flip di quelli, non va bene per buttarsi le farmi delle mani. Ma no, allora. Ah, diciamo la dica, la testa più. Oh, non ho sentito Amino, ma guarda che ti ho sentito Amino. Flip. A ieri. Ah, hai sentito ieri, sei entrato. Sì, fa molto ascolto, l'orecchino di porco fa. Sì, già detto, ma adesso sono lì, sono casa sua, ma non me l'hanno per soldato. Perché c'è la carne di asinello, adesso si sta facendo gli hamburger anche. Ho detto, quello mi ha detto bene a pranzo, sta ancora riposando adesso. E allora. Io finisce di mangiare alle 5, mi dissero, non è finito come te noi, no? Già lo so. No, io tanto non so mangiare anche tra foro. E ti ha mollato in campagna, ha fatto bene. Ma ti ha detto come tu i tuoi ricordi. O mi accompagni se vieni la macchina, o mi accompagni a casa se prendi la tua, e te ne torni in campagna, oppure mi accompagni al lavoro e te ne torni in macchina, poi te la riprendi. Mi crea la decisione. Sogna io. Oh boh. Ma anche grazie a Dio già ce li ho. Ce ne ho due qualche già per questo caso. Sono quella della vista e la mia. Però, sai, ho detto, ma se era disponibile non si è fatto che oggi non facciamo per me, non capisco, magari non so, non c'è qualche incidente. Ah, dottoressa è proprio, cioè, chirurga? No, non sono operatore, sono operatore. Vabbè, caspita. Sì. Un mestiere che deve appunto essere reperibile, pure se sei in ferie, così è. Sì che c'hai anche per fare l'amore, tutto programmato. Quando rientra, no, dalla sala operato. Adesso ti opero io. No, non è reperibile, la reperibile io. Giusto. Cosa ci vuoi fare? Lo sentivo bene dopo. Non era più fuori frequenza, diciamo. Prima, ma dopo non so cosa ha toccato, cosa ha fatto, Stavo uscendo male, capito? Infatti anche Claudio gliel'ha detto, sempre fuori frequenza. E Mario l'ha detto anch'io. Ma ha detto che aveva che cosa, buh, è sempre tu Candy. Per me sì. Vabbè, ma la vista del pubblico, se non lo apre, non ha regolazione esterna, non ha fatto calore di aprire. Dice non ha toccato niente, se non è attaccato lineare, ma hai tu. Aspetta, allora, un attimo a tutti, ti pongo il microfono. Luca del Monte. Adesso ci sta un microfono, là. Se manco in ascolto, fanno tu. Oggi a giocare a ritravagliare. Qui stiamo forse mai un cazzo, oggi io voglio lavorare. Ok, dai, vai, vai, non c'è problema. Positivo Cavarocce, frate, non ci stanno problemi, cambio. Certo, c'ho anche quello, ne ho quattro baracchini. Due, tre, quattro col Mobicom, sì, ce l'ho sempre. Sì, va bene il 3009, ma ascolti bene. No, già ogni tanto l'attacco, là. Ogni tanto, vabbè, dai, io rimango in ascolto, così ci sto questo microfono Antonio. Ma io a casa tua quando ti arrivo, Lulu. Fai? Su 2-3 prova. Sì, 9 più 28, su quasi sul più del più 30, sì. Va bene. Adesso lo sto bene. Che cappa, io c'ho già poppa. Tu io? Vabbè, esci che mi manca a fare. Bene. Cucca, Gargamella. E me, Gargamella. E me, che puoi dire? Piaco il guru. Oh, Gargamella. Ello. Ma ci vieni? Ma ci giochi? Con la macchinetta della Pimpi. Che ti si mangiani? Buon di diri. Ma nella finita. Ma nella finita devi metterla. Cucala, gonorrea, cucala, che mi faccia la due. Vabbè, te esci un uccio. Andiamo bene, andiamo. Vabbè. Piovendo, ma verso motore è tutto pulito, se sta salendo aria pulita. Tanto il vermentino. Vermentino. Luca, Corcarella. Tanto il vermentino. Cos'era tu? E cosa ne so? Ma adesso quello stai usando? Lo sto lui. Cosa stai usando adesso? Quello che stavi uscendo male prima, che te l'abbiamo detto con Claudio? No, è quello... Quello mio sto usando adesso. Però vorrei attaccarlo a vedere se lo farò di nuovo, Sì, Luca mi ha mandato la registrazione e sta uscendo bene, lì sì, ma poi non so cos'è fatto, sta uscendo malissimo. Cosa vuoi che ti dica, Ma se una radio che ti ha dato Luca, è così. Ma mi è sembrato a posto, ma magari... Adesso mi sta sistemando quel... Mi sta sistemando l'altro. E via. Ma lì piovendo sta. Qui no, ancora no, è nuvoloso, ma... Si sta pulendo l'aria. No, negativo, no, niente pioggia. Cesare, a sei uno a fare il microfono. Ho il progetto di voi. Mi sono giù con il ciò. C'è ancora a vendere il microfono. A te piace il bocco il microfono a te. Sì, caro. Mica Antonio ha detto che lo chiamava nel 30 marci. Devi dire a tu. Cos'è? 30 marci, cosa devi dire? Devi dire a Luca che ti chiama nel 30 marci. Antonio, 30 marci. Ti chiama Luca Blattinetti, ti invito. Luca Blattinetti. Oh, vuoi mai così cose da assomigliare un bel avvino? Cazzo, dici là. Sucia. Sì, ma si chiama Giulio, non ti sei visto. Sì, quella metà Blattinetti già fatta. La grossezza, certo. Signorini, Luca signorini. Ti vedi? Faccio i miei casini. A caso, è morto e farendi. Se buccia o vento, se buccia la bassanna. Ah, ma tu vuoi che dici proprio? sto scendendo, dai, a dopo. E me, Luca Platinette. Luca Platinette. Luca Flippa Platinette. Ciao. Una bazzinata aveva, bubu, oh, già sta salendo aria, aria pulita. Tremendo, eh! Ma diciamo che mi posso dire ravioli, mi siete andati poco da frizzare la città. Beh, così la tata aveva vicino ai migliaia. Cucci! Così tanto alzare la testa, mangi, non mangi. Luca, Mario! Luca, mezzo Marco! Luca, vai raggiunto! Raggiunto è Claudio! Non l'hai parata, cabe ma. Luca Mario, Luca di Ciglia. Sa madonna ti bisciglia. Infatti, io andrò a farlo, già mi porto la cosa di batte. Che ti dirai di chi? Continua a pigliare la lo garruzzo. Meglio la riga la madonna che piglia la otra pilidue. Nel paese tu sei sempre davanti, con lo garruzzo, ti lascia da te, bubu. Adesso ti devi azzattare con la madonna. Tu pure lo sai, tu. Tu pure lo sai che ho travagliato in falegnameria. Luca, lo sai, ma lo sai chiamare PV, anche se non avevo l'auto, in pelle. E allora, e quando lo suonavo faceva PV, PV, PV, compreso. E vai, ti posso dire, vieni, vieni. C'era un nesso, non è un soprannome Ursin, no. Capito. Ma scusa un attimino, tu, ma secondo te cosa che racconta sempre i microfoni, Luca? Chi mette un microfono? C'è chi su di insomma, d'alluminio, di ferro, di plastica, chi su di coso, no? Di carri. No, adesso ti metti sui muscazzi. E allora? Che sputta? E qui c'è la faridosi, creme, crotocreme, ti credo. Ma che fai, Antonio Vermentino, buona tu? Mai ve la fossi andato. Mai ve la fossi andato su Sprite. Ehi, bagnato, bah, ha già finito, buco. No, è qua, sì, fina fina. Però è pulita questo Monteoro. Anche qua, questo oratorio così, sta solo in aria pulita, tu. E poi Gianluca quando parla a fulmine. Tanto è tu, parapà, parapà, parapà. Luca! Sono un capo a capuccio che ha due lampioni. Sì. Sono tutto caldo. Aspetta, ti hanno sovramodulato. Che è avanti? No, Peppe, dammi sentita. VHF. Sì, che ti sentiamo. Astu. Ma è Astunio, bello, Astu. Ditemi. Astu, sì. Dai, pronto a mangiare e trombomi in viola. Mangio e poi si va. Tu cazzo hai finito? Ma che sono i semi? Nel frattempo mi sono bevendo una bottiglietta di birra. Ma non farò manca altro con lo fermentino. Cazzo tu prima di consumi duccia, poi mangi. Boh, boh. Andiamo pure. No, la birra è... Che so che te go a Luca, da poco ne drink a me, ma la migiana è. Eppure lo sai cosa hanno detto, che per non fare quel discorso lì, di fare sempre la schiuma su nel bicchiere, non di munirla a bicchiere rovesciato, ecco come si fa, di lasciare sempre quei 2 centimetri di schiuma. Ti abili, come le possiamo. E dove? A che giochi? Uia, devi fare un giochi, va. Cognavento. Cazzo, Luca. Pure Antonio ti passa qua. Vabbè, normale. A parte questo è un 9,50. Che mi arriva, non è Antonio. 9,50 ti arriva, vabbè, coglione. Maledetti! sì. Già siamo maledetti già, è scura a Tigas. Se non è cingo, solo è dove barri più così. Ok. Se non mi fai attaccare, se non mi fai attaccare. Se non mi fai attaccare. E giù. Ma che cazzo? Non rimbambiti, cazzo non mi guarisci di più. Ma perché non ti suicidi, cazzo, ti butti sotto il camper? Me ne faccio male! Aia! E giù di tu, Ginko, anche tu non entri mai, fa puzza. Ma io se più vendi. Sì, mi cazzo mi fai anche dire i nomi. Ma io se più vendi, cazzo, chi sei tra Dudu? Ma io cazzo già sono 2 ore attaccato alla radio. Stavo parlando anche con Claudio Muros. Muros. E sono già più o meno 2 ore con la radio accesa. Mi sto solamente ascoltando. Ma che Danilo è? Tanto Dani adesso quasi cenni, la matta di invaria. Dani! Sono quasi tenni ancora già lo messaggio tu, Yumi. Messaggio mio, cazzo, ma tu mi gattavi chi dà, quindi chi dà, ricammino. Siamo rimasti d'accordo così? Aspetta, fammi tu metto, furo, ti mando un messaggio quando ci sono. Ma io che non vi sei mai. Ma tu lo sai, io a una certa ora sono sempre là, capito, Dani? Oppure siamo rimasti d'accordo come lo metti dietro la cassettina della posta che è aperta. Oh, sono rientrato, Hello. Ciao Claudio. Ciao, chi è questo? Tutto cupo. Ma c'è una radio originale, me la devi aprire. Danilo. Ciao Dani. Questa è una radio come questa, qua. Questa che sto usando io, sto usando tu, sicuramente. Te la devono aprire, e che è che te la apri? Ma non è quella, Claudio, non è quella, assolutamente. Poi c'è un 140. E io, vabbè, sempre lì ci sono. Questo è un 430, comunque. Chi è che te la deve aprire? Sto pensando Fabrizio o Luca. Stai pensando, pensaci bene però. Ma se non puoi ci vuoi già devi aprire. Oh, il Sant'Antonio mio! Oh, io e avremo appena avremo. Cosa devi aprire oggi con te? Era Pomponio, ho la vita d'oro, ma abitia. Ma cosa devi aprire, Dani? Fammi capire, con te che devi aprire? Cosa devi fare con la radio? L'MC60 ci deve mettere e poi vedi come esce. Quella radio non c'è a toccare niente, cosa devi aprire? Sì, cosa trattende? Ma è sarrata, Claudio, ma com'è me l'hai insegnato tu pure, come ti fa? Chi è questo qui? Ah, prima di modulazione, di picchi positivi, quello devi fare. Eia, è chiusa, non senti che è chiusa, sta usando 60, non te ne sei abbizzato, ma è chiusa, sicché non c'ha spinta. E la gitto, quando devi alzare regala. E a me, non te lo ricordi, me l'avevi fatto vedere tu. Anni fa, come fare? Sì, no, pensavo che stavo usando il microfono normale. Per quello ho detto, metti 60 e poi prova a vedere se è spinta o non è spinta. Alla Luca, 10 minuti ci vuole, sono due apparature da fare, due cosettine, tu esci come questa, non c'è problema. Vai, portala alla Meg, ho comprato l'abitatore nuovo. Quello pneumatico. E allora, quella impulsi, che ancora non l'ho usato. Che quella impulsi ha chiesto di nuova frizione. E chi non più naggio frizione, andiamo a dire me naggio bruciata. Dica, al lavoro c'ho il ponte libero domani mattina, portate tutto quanto. Oh, a santi lumi. Ehi, ok, come con l'editore, capito, è chiuso, capito, e non spinge. Già è una ripresa, Danilo, da quando l'ha pigliato, però non c'ha tempo, gli ho detto, me lo lasci la mattina quando vai al lavoro e la sera a pranzo te lo prendi, ma che, è malfidente. Io lo sto cercando anch'io un 140. Non lo so, allora Alfa Romeo devi chiedere. No, secondo me non ha mai fatto 140. Ha fatto il buono 140, 140, 145, 147. Sì, ma 140 non l'ha mai fatto. No. Ma l'azzurri. Io ho visto qualcosa, vabbè, 440, ma su, forse una linea su Facebook ho visto. No, non ne voglio linee, voglio solo l'apparecchio. Solo il 140, nudo e crudo così com'è. Qua in zona non c'è nessuno che lo sta vendendo. Pazienza, allora, l'avresti andato con un 4,40. Sì. Io ti vendo questo e me ne compro un altro. Io ci stai. cosa è? 140. E quanto vuoi? Quanto glielo posso vendere lui? Non meno di 300, dai, in quelle condizioni io anche di più avrei usato, in quelle condizioni che è quello anche di più. Per un amico magari puoi stare anche sui 300, solo la radio. No, troppo. Addirittura? No, al massimo 250, non ne spendo più di 250. No, l'ho già fatto io l'affare così, no, non ne vale la pena. Cazzo, questo qua è nuovo, manco un graffio c'ha. Ti capisco, però stavo valutando anche altre cose, è che io sono innamorato del 140, ma già mi basta l'amore. Ok, se poi ti tradisci un casino. Ah, tanto meglio essere innamorato di 140 che di Lucca. No, pacca di lei, di Lucca, oi! Oi, cosa ne fai? Per carità. C'è una cosa che mi preoccupa già, Comunque, se trovate qualcosa a 250, ma in condizioni buone, fischiatemi che io lo compro subito. Sempre se nel frattempo mi sono comprato qualche altra cosa. Ma a quel prezzo io non l'ho mai visto tu. 250 euro. Se lo vedi su Facebook o su internet così 250 euro ti devi mettere il dubbio a tu. No, stanno prendendo i 440 a 300 euro. Ne ho visto tanti, ma fiammanti, belli. Anche il 140 ne avevo trovato uno, è che quello che mi ha dato quel tipo di osteria me l'ho venduto, che ho trovato un tipo che gli serviva e più che venuto abbiamo fatto uno scambio. No, a quel prezzo non lo trovi 300 euro, dai, io mi metterei il dubbio, capito? Il dubbio me lo metterei, no, qua. Vabbè, non fa niente, mi compro un 731. Ma da che cosa è attaccato, tu? Perché? Cazzo, anche qua ho mettato, non un bello, di più. No, io non ho attaccato niente. Perché qua sei un po' in saturazione, stai andando. Oh, ma raggiunti. Aspetta che accordo la valvola. Eccola qua. 9,5 mi stai arrivando, Antonio, adesso. E prima ti arrivavo 2. No, poi sei salito a 3. Santiago 3 a picchi positivi, adesso sei 9,5. Ma quando ti arrivo io a te, minimo 2 o 3. Santiago 6. Vedi, quanto attivo stai andando però. Aspetta che ti guardo lo strumento. 560, 570, su per giù. Ma non sei stato affatto, a me non sei stato, forse perché sei più vicino a Lucca, a me sei a posto, va bene. Vabbè, sono in posizione 4 e posso arrivare anche in posizione 6. No, adesso no, ma prima sì. Da quando è entrato, si può venire a baciare appena. Ancora basta, vedi un po' così. Sono saturo ancora? Sì, di radio sei sceso molto. Vedi adesso, 1, 2, 3, prova. Ma è tipo un'alternata che sta andando, proprio sente tipo un'alternata che sta andando, Vabbè, signori miei, lo devo far andare, questo qui ha 24 volt, sono le ventole dell'alimentatore, che sentite. Allora rimettilo come la prima che ti sentiamo meglio. Già mi sentite lo stesso. Qua si è passato da 9,20 a 9,40. Solo, vabbè, non fa nulla, dai. Questo è buono, è che comunque devo refrigerarlo e quindi mi devo allontanare. E poi lo faccio la ripartire, dimmi qua. La partita da quello che funzionava nel tocco? No, assolutamente. La giuccia era tutta scocciata, buh. Quindi lei mi ha aiutato, infatti adesso non funziona più, mi deve scocciarla. No, ma non l'ho tolta. Ma come se non assassi, io ce l'ho la batteria. Cioè io perché uso quelle ricaricabili, ho capito. Ho visto che era scocciata e l'ho lasciata. Beh, signore, dai, vi saluto, che devo andare a prendere mia moglie. Buon proseguimento. Che sta modulando, che non l'ho mai sentito. Buonasera. Tu, ma lo senti Antonio che ti sta chiamando? Chi è che mi ha chiamato? Avanti. Chi sei? Buonasera. Buonasera, Antonio Riserva, lei chi è? Io, Antonio Bombolo sono, buonasera. Capo, ti sento forte adesso. Addirittura, vabbè, si fa qualche si può. Dai, dai, vi saluto ragazzi, vi lascio che mi ha chiamato mia moglie che sta uscendo, devo andare a prenderla. Ciao, un bacione a tutti, vi abbraccio. Sì, un bacione da parte di Luca, che sono Magoni. Ciao Anto, a te te lo vado, ma quello non è vero perché è finocchio. Quanto mi piaci Luca. Senti che caldo. Vero. Porcelloni, porcelloni siete, siete dei porcelloni. Attenso, Antonio Fermentino. Se ti rispondo come devo rispondere, non è bello. Come un richiamo. Vabbè, sai. Tocca macchinette. Aperta, tu. Dimmi tutto. Aperta, dai! Cosa devo aprire? Un Fermentino, c'è un arbitro. Non è Fermentino, ha diabete ricchinosa. Luca Fermentino, Luca, vorrei in bacca. Luca, esci che mi pigliolavo, no, esci. Grazie, da... dall'amico. E beh, qua. Ciao, Dio. Oh, Luca. Prima di poco fa stavo parlando Luigi di... Oh, Dani. Che è? Sempre il numero uno in Sardegna, non si discute su questo. Ah, dimmi Claudio, dimmi tutto. Ecco, hai provato a cambiare l'interesse, le cose che hai fatto, con chi le hai fatte? Ah, della radio. E del microfono. Ah, è tutto quanto originale, Cla, non ho fatto niente. Ma decimale, come ti segna? 27205.0. Sì. Un zero social. Sì, un solo zero. Quindi vai a accendere e tieni premuto create e ti apparirà con decimale. Spengo la radio, la riaccendo e tengo premuto. Tieni, quando la spegni, quando la riaccendi, tieni premuto create, matrice celeste che c'è vicino a MIN. Tieni premuto quello e accendi la radio e ti apparirà con decimale. Ok, poi cos'è che devo fare? Fatto, No, aspetta che lo faccio adesso. Sì, adesso ne ho due. No, è quello che ti scappa qui. Vabbè, niente, poi dobbiamo capire se hai fatto le cose con Luca, con chi le hai fatte. L'interesse a quanto ce l'hai, se il microfono è in posizione in, perché mi sembra il troppo basso. Ah, oh, ok, gli ho mandato le foto come deve metterlo il microfono, capito? È tutto a posto, no, è normale, è originale. Vabbè, ora sai cosa fare, ma prima cosa solo per il timbrino dell'umidificato che c'è all'interno, quella ragione. Gli ho detto c'è quelle volte, quando vuoi portarmelo, non c'è tempo, capito? No, devo trovare 5 minuti che sono libero la sera. O magari anche se ce la faccio anche domani sera, Lu. Te l'ho detto, me lo puoi lasciare anche la mattina quando sono al lavoro e prendertelo a pranzo. Vai che tu me lo rubi e te lo vendi. Hai capito qua come è un affidente, ci vuole essere lui davanti, però non c'ha tempo, ma non mi devo manco lasciare a Mara, Zucchi. Mamma, c'è radio. Senta Burbo, una delizia. Questa è così, che può essere una nuova, chiusa, non avrebbe vicino, non avrebbe niente. C'è tutta una luce, ma Suscia, Suscia sia in potenza, sia in Michigene, figura che ce l'ha uno lì. Ma se lo a metà. Va bene, anche porta la Luca, già lo sa quello che deve fare. Adesso intanto tieni l'ultimo decimale, tu la puoi spegnere, fare quello che ti piace, non sparisce più, capito? Adesso ne ho due di decimali. Ok, da. Poi altre cose ci sono da fare, oltre aprirla un attimino. Ah, io lo so, l'ultimo del decimale, poi Luca già lo sa come si memorizza, no? Se lo sai, la camera non fa in poi, devi tenere premuto altre clic, perché altrimenti non ti entra la memoria. La memoria penso che l'abbia fatta il vecchio proprietario, che stava sempre in CB. Oh, vecchio proprietario. Ma che l'hai comprata quella? Non sono la mia. No, no, tipo di Cagliari. Un signore anzianotto di Cagliari. Quindi lui, non è che te lo porto domani sera o dopo domani sera? Scaglio dei Biagi. Io non l'ho tolta la batteria d'acqua, oggi mi c'è tutto uno strato di chi, ce l'ho io quelle da 9 volte del caricabile. Ho fatto solo, ho copiato solo le connessioni. Sì, immagino solo il cambio quando l'ho mandata, adesso quando la veloce c'è, perché è un nuovo filtro, quello l'ho mandata, non è rimasto da uscita. Beh, infatti anche io stavo cercando se ce l'avevo un attacco di batteria, ma non ne avevo, capito? E Dani, quando vuoi, te l'ho detto, appunto, siccome non hai tempo, lasciamelo domani mattina o a pranzo, me lo lascia a pranzo e poi domani sera passi tu ritiri, capito? Bollo. Non lo so. Ah, è vero, a parte degli scherzi, il cavo d'alimentazione ce l'hai o te lo devo portare? Perché se te lo devo portare devo smontarne tutto. No, portamelo da lì. Quindi devo smontare tutto, l'ho compreso. Yes, non so, io c'ho questo ma è diverso da quello, capito? Portami il tuo. E me lo lascio anche domani mattina, se vuoi te la ritiro a pranzo. Quando vuoi, a pranzo direttamente e me la te la ritiri domani sera. Vai, te lo porto direttamente domani sera, così mi fai vedere cosa tucchi e cosa fai, ti tuserò un fiù. Malfidente, sei un malfidente, guarda che... Ma che tu me la rubi e te la vendi, vai, oppure me la cambi. E cosa ti ha giambo? Ne ho avuto 3 di quelle. Tu mi prendi questa e mi dai la tua. E te la camuffo. Ma ne avevo io uno, 140, ma era l'altro Claudio, ma il mio era nuovo, brillo cla. C'aveva l'unica pecca dove c'è lo slide della potenza, lì un po' consumato, ma era nuovo, devo dire, fiammante, usciva che una meraviglia con la radio. No, questo mi già ho mandato anche le foto a Luca e secondo me ce l'aveva sempre in scatola chiuso. È nuovo, non c'ha manco un consumo, la parte consumata delle lettere, nuda, proprio è perfetto, ma aveva dei graffiettini piccoli, aveva, ma sono quasi invisibili, è nuovo. Sì, io ho la 140, ma hai inviato tu, ce l'ha nuovo. È nuovo, non è da mondo, sì, no, beh, io l'ho avuto e funziona bene, adesso ce l'ho 430, che vabbè, 140 io lo chiamo barattino, ci sono tutti, ma da lì, perché non va nulla, comunque già funziona bene, adesso lo metto la batteria, sì, non capote, non ti preoccupare, perché se lo so, io ho fatto la batteria, la sera è la batteria praticamente, se avviti troppo la vite del coperchio non funziona, allora devi stare leggermente svizzata, capite? Questo microfono si sente già va bene a poco, ma proprio se ci avviti sì che funziona lui, quando è attaccato alla radio funziona il modulometro. Quando è attaccato, ma solitamente funziona anche senza, perché essendo collegato alla batteria ma questo è un microfono scoscio, capito? Come Luca? Ma come? E quindi funziona così. Comunque si sente ancora quel rumore della ventola che avevo la volta scorsa. Adesso ho visto il dito un pochino e lascio aperto il pulsante. Non sento niente. Ma che zona abiti da lì? Sotto Sant'Orsola Nord. Adesso l'ho sentita la ventola. Antonio, più vittorio. Antonio, grazie, Antonio ne conosce un becla. Dimmi chi. Antonio, Ettro. Antonio. Ettro, quello che abita vicino a me. Ah, no, non l'ho più visto. È amico di mio nipote, ci vediamo poco e niente con lui. Ah, del cavo, io sto facendo le connessioni nuove sia nello spinotto che le ho già fatte. Tipo ti mando la botte, si guarda di così capolavori, cosa seria. Break, ma così è, ho capito. Mi sembra che ho registrato un vecchio, avanti ti vuole entrare. Buonasera a tutti, doppio room. Dai, ho messo a posto questo microfono che non stava andando. Penso che adesso esca bene, perché mi cambiava i canali da solo. Se lo ti ricambi adesso il canale vuol dire che va bene. La lavorazione è così e così. Io dico quello che è il buon controllo, così e così. Né sì e né no. Né 5 né 10, ti posso dare 3 e mezzo 4. Vai flipper. Ehi, va bene, qua va bene. Sì, sì. Ma no, io non so cosa c'era, c'era un filo della massa, un filettino fino fino, ma così mi dia, che toccava l'altra connessione, e quindi cosa faceva? Si girava il canale solo ed impazziva, diventava, mentre diventava 10 andava 11, 12, 13, capito? Infatti a volte un filino che si fa decidere il gabba che a voce ma così vedi. Vabbè, sono contento, questo apparecchio la fermo, non lo so quanto, penso 5-6 anni. Ma 48 l'ho fatto io già, no? 48 chiuse. Ma avete fatto le connessioni? Vabbè, non è messo, vabbè, non c'era il coso termorestringente nella calzamaglia, e quindi cosa succedeva? Che c'era un filettino che toccava e cambiavano i canali. Adesso già l'ho sistemato io, gli ho messo il termorestringente sopra la calzamaglia, quindi non tocca più. Oh già, dimmi. Sì, certo, Luca, c'era appena avantendi, ti faccio vedere i capolavori, il microfono e tu la valla è tutto tanto disastrato. Ma che figure stai facendo? Beh, io le connessioni le ho fatte giuste, poi se lui si mette a tirare i fili, mi va di strano, io gli ho salti bene, guarda, poi ti mando la foto di quello che sto facendo adesso, quello di Antonio, mi si sono fatti bene. E mi pongo, abbiamo su buon imbu di zoni a farlo, ora se la foto, ma lo posso bene. E Simone Gianni, mio Luno, non lo so cosa Gianni, io no. No, io non ho detto niente, io, Luca me l'ha spiegato bene le connessioni. Mancava praticamente, te lo sto dicendo, il termo restringente e un filettino che manco si vedia, toccava l'altra connessione, capito? Magari anche muovendolo, cosa ne so, perché questo spinotto è a vite, capito? Magari si è mosso e coso e non è colpa sua. Perché probabilmente lì ci ha messo 6 ore invece che 10 già. Vabbè, in conclusione, come dicevo, non lo fanno ok, Davide, riprendi. E vi stavo ascoltando e mi stavo sistemando un pochino le cosettine che c'ho qua sopra. Chi sa di Gediata, ATV, chi c'è di bravi? Che cose se non sono fatte dalle stesse persone, non bisogna dire che siete bravi. Luca, secondo me tu i cellulari li porti al centro assistenza e li fai aggiustare da loro. Io, magari fosse vero, avevo potuto fare, galliare di guadagna via Sabannuda, ma purtroppo non è così. No, Dani, sono tutte e due con le mani d'oro, lascia perdere. Luca nel suo e Luca nell'altro, sanno fare le cose sue se le sanno fare, va bene, va bene. Chi c'era Pio, Luca, non mi ricordo, poi facciamo qualche prova al BM, a vedere se l'antenna funziona sempre bene. C'è Antonio, bombolo, Antonio Risola, non so se era anche chi l'ha chiuso, vediamo un po', permetti. Antonio abitava a chiamare il Bello Mosè. Dai, Vizio, è subito Rosellino, una bugata. Ma quanto ti ha fatto? Gappa, gappa, va bene, dai, chi è che mi ha chiamato in PMR? Tu, qualcuno mi ha chiamato in PMR, va bene. Ok, riprendi allora Gianni, dai. Dani, non per saperlo, è per tenere il mercato, perché io sono morto a 300 euro con 140. Quanto hai pagato quello? 250, ecco. Però me l'aveva detto già da un paio di anni. Ce l'aveva sempre chiuso a casa sua, senza usarlo, senza niente, mi ha detto. Buono. No, io ne ho uno sotto mano a 300, però 250 no. Non sono graffiati, l'ho testato, è una cecca, fate quanti di voi, modulazione Ricci Genetica, vabbè, io metto la modulazione del K, ricci io. Ma questa qua ho fatto su un affare, infatti mi avevo detto il prezzo e quel prezzo lì mi ha tenuto senza dirmi guarda costa un pochino di più, invece no, questo qua mi ha detto quel prezzo e quel prezzo lì mi ha tenuto fino a quando non sono sceso a prendermelo. Ok, vabbè, c'è qualcuno che sta chiamandomi. Io sento qualcuno, ma stanno chiamando anche per me, non so chi è. Avanti, chi chiama Sassari? Chi sei? Dove sei? Con chi sei? Eccetera, sei? Allora, chi sei? Adelante, vieni avanti, chi sei? Ma te la bili il nome della vostra madre, prendi uno. Allora già vendi, Sassari. Ti sentiamo, ma se non parli... Infatti io ci metto poco, entro o non entri, siamo qua, se vuoi parlare. Stiamo qui almeno per 20, vanno a occupare 23. Buon spagnolo, non parli spagnolo, no, parli spagnolo, usiamo un quadro, amico, lui ci ha detto, non vendiamo quadri noi, vendiamo spray. E vermentino. E vermentino buono. Non è che stava parlando del PMR, dove che sta chiamando Gio Maria. Boh, ce l'ho spento io, se no ho capito, va bene, da voi si intende da chi, però va bene. Ce l'ho un po' spento. Pensiamo che di tu, eccetto che sta chiamando Gio Maria, il PMR. Boh, non c'è nessuno, 23, sicuramente sono in ascolto qua. Beh, noi siamo tutti, noi siamo ascoltati qua, però c'è il libro 23, poi ci fanno le chiacchiere. Siamo qua, Gianni non c'è più, che fine ha fatto? Gianni? E poi nel dermo restringente, e Luca si è dimenticato, si può cacciare. E tu come ci mai detto amore di resistenza? Non ho controllato niente io. Vabbè, la benissimo venuta. Chiami, chiami. Avanti, da lì. TMR, su quale frequenza siete? 447. 44601. 446081. Canale 7 da lì. Abbiamo un monitor, quello è il cui ci abbiamo preso il canale 20 e il canale 10, parliamo noi, parliamo sul 20 e sul 10, eh. Capito? Siamo qua, siamo qua. Oh, tu, perché fa così quella batteria? Praticamente ogni volta che la cambio la levo, le devo mettere il nastro sopra dove c'è l'attacco. E è nuovo, nuovo l'attacco, ed è un soldato nuovo, non so se avete i figli. Batteria, chi è? No, ho visto il nastro e... perché siccome appunto ti ho detto stavo facendo le connessioni e non uscivo, ho detto boh, forse scarica la batteria, poi ho visto il nastro, ho detto no, non la sussi. Stavo guardando se avevo degli altri attacchi di quelli per farglielo, ma non ne ho, probabilmente cosa le manca, sto pensando che gli avessi il nastro forse perché le manca la plastica di sopra, boh. Come c'è la plastica di sopra? Incassa anche bene. Incassa anche bene. Ti sento, Dani, tu sei che ti chiama nel PMR. Eia, però io non ti sento a te. Aspetta che mi metto l'altra antenna. Non senti a me, se non senti a me è triste. Cra, un'antennina minoretta, guardi, aspetta che collego quella grande. Oh, vabbè.